Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stockmore Rock. Domenica di intervista e sono qui. Taglio corto, che così vado ad introdurre subito senza stare a fare troppi giri di parole. Li ringrazio già da subito perché so perfettamente che hanno avuto un weekend abbastanza importante e sono usciti praticamente da pochissimo con un EP veramente carico. C'è un gatto con un EP veramente carico. Sono i Secoli Morti, sono qui con me con la formazione completa, quindi Walter, Edoardo e Mattia. Ciao ragazzi, come va? Ciao, bene, grazie per lo spazio e per averci invitato. E sì. Io, come dicevo, ringrazio anch'io voi per lo sbattimento, anche perché so perfettamente che venite da un weekend molto importante, perché avete avuto questa comparsata al Jack Harlow Fest ieri alle 2, per poi fare toccate fuga, un saluto con un paio di amici, un paio di pezzi, ha smezzato il tempo tra voi e tra Secoli Morti e The Rubber Room, e poi partire per Macerata e il proseguimento della data effettiva, diciamo, di questa accoppiata. Quindi grazie ragazzi di questo sbattimento che vi fate l'ultima oretta in compagnia mia e a parlare appunto di questo. No, tempo. Guarda. Ma grazie a te. Fossero questi gli sbattimenti della vita, guarda. Sì, infatti. Dice, meglio questo che altro alla fine. Cioè, domani devo andare al lavoro, è peggio quello. Esatto, infatti stavo per dire, dici, l'ultima fatica, ma in realtà il lavoro già a ridosso, quindi siamo già a ridosso della settimana che inizia, però ce ne faremo una ragione, un po' per tutti. Vado adesso, finito qua, vado a fare un bel copricas. E via, per mantenersi belli carichi. Io ho una domanda introduttiva di cui Walter mi aveva già risposto la volta scorsa quando l'avevo chiamato per i Secoli Morti, sempre, e riguardante l'album Sanguina. Quindi questa volta la dedico, questa domanda introduttiva, a Edoardo e Mattia, che sono dall'altra parte. Domanda introduttiva che è sempre quella, quindi se magari avete visto qualche altra intervista la saprete, ma con il dono della sintesi vi vado a chiedere: sapete sicuramente che NoFX si sono sciolti a fine del 2024, semplicemente vi vado a chiedere cosa sono per voi NoFX. Dobbiamo rispondere noi, bene. Sì. Ti rispondiamo semplicemente con un aneddoto, che si sono sciolti, hanno fatto gli ultimi 3 concerti a Los Angeles e noi eravamo lì sotto il palco, quindi detto tutto. Guarda, è presente tipo Mick Downal, tipo una roba da rapper questa, no? Ti sparo questa e poi lascio il microfono, perché più di così non posso fare. Risposto più che chiaramente, direi. Sono qui, come dicevo, la formazione completa, come dicevo, mi fa un sacco piacere, è una band che mi piace veramente tanto e ho avuto l'occasione di vedere questo paio di pezzi appunto ieri al Jack Harlow Fest. Un EP di 7 canzoni racchiuse in 5 minuti, quindi questo è stato un colpo abbastanza importante, perché già pezzi corti c'erano, ma non così tanto corti da dover fare letteralmente spenderci veramente 5 minuti, perché non ne bastano praticamente di più. E quindi prima di lanciare un pezzo e andarci ad ascoltare qualche brano dell'EP, come è venuta questa carica incredibile di fare questi pezzi mega corti? Allora, l'abbiamo fatto per divertirci, sinceramente, perché sono cose divertenti da fare. Abbiamo detto, ciao dai, facciamo sta cosa. Alla fine, all'inizio un po' per ridere, poi l'abbiamo fatto davvero. No, più o meno. Sì, anche perché l'ultimo pezzo nostro che era uscito era un pezzo con il pianoforte, la voce, un pezzo che usciva un po' dagli schemi a cui siamo abituati, e a noi piace comunque non fare tutte le cose uguali, no? Quindi mantenere una certa, ti vorrei dire, originalità per quello che c'è possibile, no? E quindi ci siamo detti, dai, proviamo a fare una cosa di questo tipo, e ci siamo messi a farla e ci è uscito questo EP. so che insomma un po' di persone ci stanno chiedendo ma come mai, come non mai. In realtà, detto questo, non è che ci siano proprio questi grandissimi ragionamenti dietro, cioè noi, come ha detto Mattia, più che altro l'abbiamo fatto perché era una cosa che ci divertiva prima di tutto. Dai, ok. Buono, non se lo si aspetta, diciamo, però giustamente questo punk hardcore un po' più old school rispetto a quello che bene o male andavate a proporre. Io inizio anche con la musica, ci andiamo ad ascoltare anche brani da Per non morire, dall'EP che sono dei Secoli Morti, che sono usciti appunto a metà marzo. Ma prima rientriamo sempre collegato con i ragazzi dei Secoli Morti, ci andiamo ad ascoltare ovviamente qualche brano se non l'avete ancora fatto. Ripeto, ci vogliono veramente 5 minuti per ascoltarvelo ed è veramente veramente carico e figo. 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp, e riferirò ovviamente la domanda ai ragazzi che sono collegati qui con me. E intanto io continuo con le mie domande, con le mie curiosità riguardanti un po' il nuovo EP che ci andiamo, come dicevo, che ci andiamo a ascoltare. E prima di tutto, a colpo d'occhio, questo titolo Per non morire, ci sono sempre dei temi abbastanza sentiti dentro, bene o male, comunque non è lasciato al caso tutta la questione. Quindi questo titolo Per non morire, cosa, come è saltato fuori? È saltato fuori dopo discussioni durate mesi e mesi. Il titolo originale era un altro, che non ti dirò. No, diremo. Perché lo tieni per la seconda parte dell'EP? Vedremo. Può essere. Utilizzeremo. Magari un giorno lo spenderemo per qualcos'altro, ma era un titolo che non lo so. Che poteva creare qualche. Non è che poteva creare qualche problema, però insomma ci vedeva un po'. Non eravamo convinti al 100%. Per cui dopo mesi e mesi di discussioni abbiamo tirato fuori diverse opzioni, tra cui questo Per non morire, che fa parte poi del pezzo di una canzone, del testo di una canzone. Per cui insomma, però ecco, sappi che non è stato semplice per niente, è durata veramente tantissimo questa cosa del titolo, tantissimo. Siamo arrivati. È inversamente proporzionale alla durata dell'EP. Ah, ok. Allora, guarda, sinceramente, inizialmente ho detto, vabbè, sarà una gag, perché dice alla fine ci sarà veramente un discorso, scusate, importante. Invece, effettivamente, a quanto dici, c'è stato un discorso abbastanza lungo dietro per tirare fuori questo titolo. Va bene, quindi arrivati assolutamente. Quasi, sì. No, vabbè, ci sta. Ogni band c'ha il proprio segreto per poter... diciamo andare avanti o tirare fuori i propri lavori. Quindi io, ironicamente, come ti stavo dicendo, il titolo che avete scartato lo potete tenere per il prossimo EP, quindi avendo fatto un EP veramente corto c'è già qualcosa in mezzo, in ballo, perché 7 canzoni così possono aver creato qualcos'altro anche. Vabbè, abbiamo ancora delle idee, abbiamo sempre qualcosa che ci frulla per la testa, ma non te lo verremo a dire adesso. Più avanti, nel caso. Sì. Quindi entro fine anno? No, se ne parla per il prossimo, allora, a sto punto. Calma. Sì, con calma. No, va bene. Un'altra cosa che ho notato ovviamente di questo EP, che è cantato principalmente da Mattia piuttosto che da Walter. Anche questa è un'altra decisione. Sì, è stata proprio una scelta voluta. Cioè, ci siamo detti, ok, vogliamo fare delle canzoni fatte in quel modo lì, e solo tu, Mattia, puoi cantare in quel modo lì. E... per cui sì, è stata proprio una scelta, purtroppo si scrive qualcuno, no, ma in realtà il punto di forza dell'EP è proprio quello, secondo me, la voce di Mattia, che è perfetta per questi pezzi. Come cazzo ti fa? Ora, no, come sapete, io non ho Instagram. No, non carica la chat, non riusciamo a leggere i messaggi. Okay, vabbè, ce li leggete voi, dai, a parte quelli di Steve, per tutti gli altri leggete. Sì, no, meno male, tanti messaggi. Allora, vai, diciamo, dimmi. Diciamo che abbiamo preso una parte di quello che è la nostra musica, no? Che noi abbiamo quella roba qua nel nostro repertorio e l'abbiamo, diciamo, presa, l'abbiamo accentuata, l'abbiamo valorizzata in quella maniera qua. Ecco, una piccola parte di noi. Andata più o meno così. Va bene, va bene. Come dicevo, veramente 7 brani in 5 minuti e questa è nella prova. Questo era Quando sei al buio, da Per non morire dei secoli morti, con 38 secondi di canzone. Mi sono fatto mandare da voi, come spesso faccio da chi vado ad intervistare, i brani da poter passare in trasmissione. Quindi sono 7, quindi non avete una scelta ampia, magari come un album full album da 10, 12, 15 canzoni. E questo Quando sei al buio, come mai è stata scelta? Perché avevo capito che sono due le preferite del disco. Quando sei al buio, Bukowski. Abbiamo due tracce che ci piacciono un po' di più, come tutti, diciamo. Poi, vabbè, anche Cancrena a me piace, sinceramente. Sì. Boh, non so, mi piacciono a caso. A me, personalmente, non c'è un motivo ben preciso. Su quelle più cariche rispetto a delle altre è un po' una presa in giro, per modo di dire, perché obiettivamente sono tutte veramente lunghe, cioè veramente corte, veramente veramente cariche. Sì. Intanto Cicco scrive: e volevo fare i complimenti alla band perché spaccano di brutto, ma in particolare volevo fare i complimenti a Dedo perché è veramente una bomba e volevo chiedergli a chi si ispira a livello di batteria. Io forse una cosa la so, però lasciamo rispondere lui. Ah, innanzitutto grazie sia per i complimenti a me che alla band. E ispirarmi, in realtà non so bene a chi mi ispiro, perché ho diversi generi, diversi gruppi, quindi diciamo che comunque i classici batteristi che piacciono un po' a tutti, quindi che possono essere un classico Travis Barker, oppure anche che mi piace anche tanto è Eloy Casagrande, che mi piace tanto, e anche il primo batterista degli Slipknot, adesso non mi viene il nome, era Joy Jordison. Ecco. Okay, e poi quindi anche batteristi che fanno altri generi, no? Ma qualcuno. Vabbè, il batterista di Salmo, per esempio, bravissimo anche. Che è molto, molto adesso bravo. Adesso suona con sì, quello che c'era, perché adesso suona con Post Malone, mi sembra, però quello che c'era un paio d'anni fa, lui era veramente forte. No, vabbè, dai, diversi generi, bene o male, un po' quello che vai anche a ascoltare. Io avrei detto sinceramente un Sean Sellers dei Good Riddance, appunto. Vabbè. Perché anche un po' per la velocità e averci, ricordo a un bei fest che risalito sul palco a suonare un pezzo con loro, perché è nata questo amore quasi incondizionato con la band. E grandi amiconi. per dove si può. Intanto Stig dice Edo Alieno, tra l'altro, perché obiettivamente conosciamo tutti benissimo la sua bravura alla batteria. Io vi interrompo un attimo per andarci ad ascoltare un'altra nuova uscita. Intanto Cicco dice grazie mille, ancora complimenti. E quasi a conclusione della prima parte di Stormo Rock, sono sempre collegato con i ragazzi dei Secoli Morti ad ascoltarci un po' il nuovo album, il nuovo EP Per non morire. E qualche domanda ovviamente che arriva anche da fuori. Io ho una curiosità. Anzi, prima della curiosità, che me la tengo per la seconda parte, vado a chiudere la prima parte chiedendovi, oltre la data che avete fatto ieri di release a Macerata e quant'altro, con la comparsata, come dicevamo prima, al Giancarlo Fest a Rimini, altre date già confermate? O qualche spoiler allora, che potete realtà, già dire? In realtà abbiamo diverse date già confermate, non so se possiamo ancora dire, quindi Edo, possiamo dire qualcosa? No, No, solo che abbiamo la data a Cisano, ma non si può dire con chi. Però abbiamo la data a Cisano. Una data al Senza Far Rumore Festa a Cisano Bergamasco. Abbiamo a maggio. E poi non mi ricordo le altre. No, poi abbiamo qualcosa ma ancora di definitivo, diciamo, e di annunciabile ancora niente. Però ti prometto che sarai il primo a saperlo quando ci sarà qualcosa di pubblicabile. Ok, buono a sapersi. Quindi spero anche che riuscirete a passare bene o male dalle parti di Bologna, perché non penso abbiate mai suonato qui dalle queste parti, o sbaglio? No, confermo. No, zona Bologna non siamo mai passati. Quindi guarda, speriamo veramente di incrociarci presto. Solo ai concerti, te e Ledo, no? A Bologna. E tra l'altro parlava di Eloy Casagrande, l'abbiamo visto con lui l'ultima volta, non ti ricordi? Tra l'altro. No, va bene, dai, buono. E Martiz dice figo senza far rumore. Bella bomba, figata. Quindi già questa confermata ha già preso piedi, diciamo, per modo di dire, e già piace già. Quindi aspettiamo le prossime date che avete in programma, già confermate, che non potete momentaneamente dire nulla. Come dicevo, quasi a conclusione della prima parte di L'Estromo Rock, ci andiamo ad ascoltare un altro brano dei Secoli Morti, da Per Non Morire, l'EP uscito a metà marzo. Quindi quest'anno mi sta andando abbastanza bene con tutte le varie conferme di intervista, perché tutti mi hanno scritto prima, o qualcuno ho saputo l'uscita abbastanza in tempo per potermele fissare bene o male a ridosso dell'uscita. Quindi anche con voi sta andando abbastanza bene, che non siamo a giugno, per dire, andrebbe bene anche a giugno probabilmente, però mi fa piacere parlarne quando è abbastanza fresca la questione. Seconda parte del Stormon Rock, sono sempre collegato con i ragazzi dei Secoli Morti a parlare e ad ascoltare il nuovo EP Per Non Morire. Quindi, come dicevo, ho scoperto una curiosità che non sapevo su Mattia nello specifico, polistrumentista, perché ho visto, oltre che suonare il basso con i Secoli Morti in una diretta e in una storia, ho visto che suonavi anche il piano, e ieri ti sei anche dilettato a suonare la chitarra. Quindi com'è nato tutto sto baladan di roba? Non la sapevo questa. Allora, io suono davvero tutto male, però. Vabbè, però sincero. No, la chitarra era stato il mio primo strumento quando ho iniziato a suonare. Da piccolo ho suonato chitarra, avrei voluto fare il pianoforte, ma poi tutti i corsi erano pieni, c'era poco. Ho fatto chitarra. Poi ho suonato un po' la batteria, poi sono passato al basso, ho strimpellato un po' la tromba, sempre male. Prima male, questo è proprio il male, male, male. E poi adesso sì, col piano, ma vabbè, accompagno, non sono un vero e proprio pianista. No, vabbè, però so suonare è un parolone, però suonicchiavo male il basso ed era uno strumento solo, quindi potevo impegnarmi di più. Tu già ne hai quattro, quindi direi che è già un po' più ampia la questione. Questo c'è Barza di Valderino. No. Ok, vabbè, continuiamo, non ho capito cosa stavate dicendo, però... Ma no, che c'era Bad Barza, batterista di Rubber, che intanto mi mandava i reel su Instagram. Ciao Barza! Fantastico, quindi c'è l'intruso anche, c'è l'intruso su un altro telefono, probabilmente siamo collegati anche con i vari telefoni per poter... vagamente vederci. E continuando l'intervista, adesso io mi ricordo di aver fatto questa domanda a te, Walter, la volta scorsa quando ci eravamo sentiti per appunto il discorso di Sanguina. Quindi a distanza di tanti anni, perché ne sono passati 3 o 4, adesso non mi ricordo quando è uscito Sanguina sinceramente. Tre anni. Di conseguenza, Edo è cresciuto. Era un discorso, come vedevate il gap di età ai tempi con Edoardo abbastanza piccolino, bene o male. E questo ovviamente, questo gap piano piano si sta diminuendo, quindi come la vedete adesso la questione età, banalmente? Ma forse è una domanda più da rivolgere a Edo direttamente, no? Infatti mi aspettavo una sua risposta principalmente. Beh, è reciproca la cosa, come viviamo noi magari e poi modo lui rispetto a noi. No, beh, parti te. Beh, io non ci ho mai dato troppo peso, magari per me è sempre stato normale, non ci ho mai avuto problemi di questo tipo. Magari all'inizio più per loro, che comunque avere una band con un bambino magari era un po' diverso, però adesso mi sembra che problemi non ci sono mai stati. Magari prima si facevano cose più con le pinze, ma adesso sicuramente no. È stato svezzato, quindi direi, come banalmente dicendo, quindi si può parlare. Ieri con qualcuno che il primo disco che abbiamo fatto, lui quando l'abbiamo registrato aveva 9 anni, abbiamo scritto un disco punk senza neanche una parolaccia. Attenzione. Vedi la curiosità come vengono fuori, no? Poi quindi adesso piano piano potete dire le parolacce, perché dici tanto alla fine. quest'anno fa di... è grande, adesso lui è quello grande e noi siamo gli anziani praticamente. Esatto, quindi adesso sarà diverso, piano piano è lui che vi sostituirà per andare avanti con i secoli morti. Che faccia che lo fa. Sì, che poi come già ti dicevo la volta precedente, quindi qualche anno fa quando ci siamo sentiti, in realtà da parte mia non c'è mai stato nessun tipo di... cioè non è mai stato un ostacolo la questione dell'età, cioè anche quando Edo era piccolino era bello suonare con un ragazzino di quell'età, quindi non è mai stato un problema dal mio punto di vista il gap generazionale. Sì, ovviamente non era ovviamente per andare a cercare storie strane, era giusto una curiosità mia, perché magari mi ci metto in mezzo, dici c'è un bambino che è veramente bravissimo e io sono di merda la chitarra, per dire, no? E quindi... Bravo. Ed è esattamente quello il caso, che è un po' la sensazione che ho avuto dalla prima prova che ho fatto con loro. Nel senso, siamo andati, io me lo ricordo ancora, siamo andati in sala prove, abbiamo iniziato a suonare, ho detto cazzo, ma veramente, nel senso, è vero, sono io quello scarso. Sì, beh, ma quello sempre in modo ironico. No, è vero. Okay. No, l'unica cosa non è vero, non è vero questa cosa che ha detto. Che cosa? Il Walter che ha detto che lui è quello scarso. Ah, sì, ciao, è un po' troppo modesto il Walter. No, l'unica cosa che era difficoltosa era che se suonavamo tardi lui prima doveva dormire, quindi no, lui si metteva sul divano, dormiva, poi lo svegliavamo, va che dobbiamo suonare, si alzava, veniva sul palco, poi dopo non dormiva più, stava su tutta la notte. sì, giustamente dici, non la puoi ragionare come un ragazzo di 20 anni, per dire. E poi dopo dice deve giovare i suoi tempi, però adesso chi se ne frega, questi tempi sono passati e lunga vita ai secoli morti in questa formazione, come dicevo, ovviamente tutte le varie battutine che sono state fuori. Quasi finita la seconda parte del Stormo Rock e di conseguenza anche la puntata, mancano due brani, una nuova uscita e un altro brano dei secoli morti da doverci ascoltare, ma continuiamo con un po' con le interviste, con l'intervista. Allora, date in arrivo, brani in arrivo, non mi ricordo se già con te Walter ne avevo già parlato la volta scorsa, quindi adesso essendoci in full band con la Napoli al completo vado a riproporre la domanda, nel caso sarà nuova. A parte il discorso del cantato italiano che comunque continuate a portare avanti, un discorso di live esteri, dato che tu con il Menagrammo Walter sei riuscito ad uscire dall'Italia, quindi magari con agganci riuscivi a suonare anche fuori con i secoli morti. E diciamo che con il Menagrammo è un po' differente il discorso, sia per la lingua che proprio per l'impostazione di come siamo come band, no? Per cui sicuramente più versatili rispetto a diverse situazioni, no? Quindi negli anni abbiamo suonato un po' dappertutto, no? Per cui siamo, anche per come siamo come formazione, è un pochino più facile trovarci una sistemazione magari. Con i secoli in effetti all'estero non siamo ancora andati, per un certo periodo stavamo vedendo se riuscivamo, si parlava di Slovenia, cose comunque vicine, ma poi non si è concretizzato nulla, però non è una cosa che ci sentiamo di escludere, nel senso che sicuramente siamo concentrati sull'Italia e ok, però ovviamente ci piacerebbe e probabilmente succederà anche di suonare fuori dall'Italia. Oh, ok, quindi vai. Bello. Bello. Ok. No, aspetta, ti stavi dicendo qualcosa, non ho capito. No, ho detto, sarebbe bello un bel tour in Giappone, sarebbe male. Vabbè, in realtà ho visto che molti vanno in Giappone a suonare, penso che sia abbastanza, non dico facile, però comunque le band europee sono ben viste in Giappone, quindi magari è la via un po' più facile quella per avere la carta giusta della gente. Sono europeo, faccio questa roba qui, se vi piace mi piacerebbe suonare dalle vostre parti, quindi penso che sia abbastanza fattibile la questione. Poi dopo poi quando vai, se vai proprio dall'altra parte del mondo, sicuramente susciti anche più interesse, più curiosità, vieni visto magari in una maniera diversa, per cui sì, è come dici te. Esatto, infatti Stigu dice tipo i Retarded che sono andati a fare il tour in Giappone, quindi a sto punto vi auguro che riuscirete prima o poi anche voi ad uscire dall'Italia, diventare internazionali, per modo di dire, passatemi il termine, che così a dare l'italianità anche fuori, ecco, per modo di dire. Ti ringrazio, grazie. No, vabbè, prima o poi, tanto perché la cosa assurda è che tante band puntano già col cantato in inglese, questo approccio di stile punk rock hardcore americano, quindi avere sonorità che tutti conoscono, a effettivamente dici ok, siamo italiani, però noi puntiamo a suonare all'estero perché per questi X motivi, quindi ognuno c'ha la propria, quindi si vedrà cosa salterà fuori. E domanda banalissima, avete mai pensato effettivamente di fare questo split, essendo un membro fulcro da entrambe le parti, sdoppiare come NoFX Rancid, Benagramo, Secoli Morti? O è una roba impossibile? Aspetta, posso dire una cosa? Vai! Perché noi abbiamo quella roba qua che quando uno dice membro dobbiamo sottolinearla. Ha detto membro. Vabbè, c'hai 60 anni, c'hai. Vabbè, dai, è arrivato adesso. Scusaci. Io mentalmente ho tirato giù il microfono della diretta, perché mi stavo spisciando alle risate, stavo tossendo di brutto, quindi non era bello sentire anche il mio tossito. Però a parte questa battutaccia da Simpson anni 90 praticamente, perché penso che più o meno il periodo sia quello, a parte quello, più o meno è saltato fuori, o no? Dici che non è... Hai avuto un'idea che in effetti è figa, adesso detta così suona bene come cosa, sarebbe figo, no? So il Walter cosa dice, magari dice no, che merda. No, Walter ha perso la connessione, ma sta fingendo di aver sentito la domanda, per cui io ho detto adesso in base alla risposta di Mattia capisco qual era la domanda, no? Però lui mi ha passato la palla in questo modo qua e quindi non posso improvvisare, provo a inventare la domanda. Allora, sicuramente era qualcosa che riguardava i Menagramo. Ecco, bravo. Ok, quindi ha chiesto a lui, sarebbe una bella idea fare tipo qualcosa insieme? Bravo, esatto. Sì, lo split NoFX Rancid, giusto per capirci, uno coverizza l'altro. Però sai cos'è che cioè, dovrei cantare sempre io forse, no? E quindi non è proprio... Dici, si dice alla massimo. Fine. Dice no, alla io. Fine. Però ti devo dire che Mattia insieme a Edo e a Gabba, che è il bassista dei Rubber Room, hanno fatto la cover di un pezzo di Menagramo che è Il treno per Brescia. È una cover favolosa, tra l'altro, e che abbiamo anche riproposto proprio ieri, sia ieri pomeriggio che ieri sera, l'abbiamo anche suonata dal vivo, per cui in effetti la tua domanda vedi che conteneva già un fondo di verità e di attualità. Infatti era quello da cui mi ero agganciato. Tra l'altro appunto è il pezzo che suono la chitarra di cui stavi parlando prima, appunto, no? Vedi, sembrano buttate a casaccio le mie domande, ma in realtà è tutto ragionato, sembra collegato tutto, sembra, ma tutto collegato. Molto bene, e rientriamo per l'ultima manciata di minuti dell'intervista con I Secoli Morti, informazione completa. Vedevo che erano usciti, avevi mostrato un attimo velocemente i CD, quindi ricordiamo che il CD dell'EP dei Secoli Morti per non morire è ancora disponibile. Io sinceramente ho avuto un attimo di timore quando ho visto edizione limitata 200, ho detto boia, sono un po' pochini, spero di riuscire a averlo, a beccarlo, e infatti fortunatamente sono riuscito a prenderlo appunto ieri. Poi abbiamo fatto sì. Le felpe. È vero, c'è anche la felpa fighissima che ricorda la copertina, molto bella anche quella. Tra l'altro, scusami se posso approfittarne, io vorrei anche ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo disco, a partire da Nino di Motor City che ci ha curato le grafiche, a Frank Altare che ha curato la registrazione, a Totonno che ha curato mix e master, e a Professional Punkers ovviamente, a Ruggero che ci ha permesso di stamparlo e di pubblicarlo. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma sicuramente l'ho fatto, per cui chiedo scusi, ma perché ho dimenticato, un ringraziamento generico. Edo, ho dimenticato qualcuno? Claudio l'hai detto? Bravo, vedi, ho dimenticato Claudio, che era praticamente il chitarrista e cantante originale dei Secoli Morti, prima che io esistessi, che in questo disco fa i cori in una canzone insieme a me, e che salutiamo naturalmente. Ok, qua è appena entrato Stefano di THT con... Ne parlavamo prima, poi dopo Stefano nessuno ha detto assolutamente nulla, quindi puoi pure andare esatto, tranquillo, perché io mi sono fidato, io mi sono fidato di chi ha parlato, diciamo. Vabbè, c'è qualcosa che potrebbe fare innervosire uno della tua stanza. No dai sarà più che onorato, diciamo. Io, come dicevo, sono effettivamente arrivato addirittura d'arrivo e vado a chiudere l'intervista con la mia canonica domanda scarica barile. Quindi vi vado a chiedere, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? Oh, mamma mia che fatica, ma sei pazzo a fare queste domande? Lo so, è perché salta fuori, ci magari... Non mi hai chiesto come stai. Non ti ho chiesto come sto. Aspetta, sai da come mi frego? Col fatto che ci salutiamo per il check, ci salutiamo all'inizio, magari qualche passaggio me lo sono dimenticato. Può capitare, perché alla terza volta può succedere, però cerco sempre di rispettare tutti i vari ciao, perché dici, questi partono e manco si salutano. In realtà potrebbe essere capitato, poi mi vado a rivedere il video, ma ti riconfermerò. No, domande che non hai fatto che a cui vorrei rispondere non saprei. È sempre un piacere chiacchierare con ti ringrazio intanto per lo spazio che ci hai dato ancora una volta e niente, grazie di cuore anche a chi sta seguendo la diretta e chi sta scrivendo e chi continua ad ascoltarci e chi continua a venire a vederci ai live, che vediamo che insomma sono sempre più persone, per cui grazie di cuore davvero. Grazie a tutti. Grazie, sì, è vero. Benissimo, benissimo. A me fa, come ti dicevo, a me fa un sacco piacere avervi chiamato qui, avervi avuto in tutta informazione completa. Quindi io vado semplicemente a chiudere la puntata, effettivamente, che così vi lascio effettivamente andare a riposare. Quindi vi rinnovo il ringraziamento che avevo già fatto prima per lo sbattimento, anche se dici non è uno sbattimento, però obiettivamente si poteva stare un po' rilassati, però hai avuto questa oretta di chiacchierata e vi ringrazio e spero di vedervi presto. Sempre un piacere. Sempre un piacere, davvero. Guarda, grazie a te per lo spazio di nuovo e a presto. Diamogli il gatto. Benissimo ragazzi, io vi saluto, come dicevo, spero di vedervi presto in un live un po' più lungo magari rispetto a quella comparsata dell'altra sera, che mi ha fatto comunque piacere perché non me l'aspettavo sinceramente. Quindi dice, vedervi così da un passo, vedervi anche solo un paio di brani, è stato veramente veramente bello. Buon pancrock a tutti.